Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. E buonasera a tutti, sono le 22:33 minuti, qualche minuto di ritardo come spesso accade quando abbiamo dei live, perché bisogna attaccare tutti gli spinotti, allacciare tutte... Ma come, non era un acustico? Sì, è un acustico, ma con la sua... Con un po' di fili che ci tengono attaccati. Avete già sentito la voce del mio ospite, un gradito ritorno. In questi casi sì, la battuta classica è sembra ieri. In realtà non è proprio così, perché era il 2003 quando sei venuto qui l'altra volta. Io lo sto dicendo sempre questi giorni, ero molto più vecchio allora, sono molto più giovane oggi. Anche tu sembri molto più giovane. Grazie. Il tempo non è un nostro problema, anzi è una risorsa, non è un problema. Vabbè, qualcuno avrà già riconosciuto la voce inconfondibile di Giulio Casale, di ritorno agli studi di Blu Radio Veneto, graditissimo ritorno. Per me. Ritorno anche discografico, tu, sappiamo tutti che hai fatto 7 anni di vacanza praticamente. Sì, non ho fatto praticamente nulla in questi 7 anni, per cui finalmente ho fatto qualcosa e non vedo l'ora di dirlo, come tutti gli isterici del resto. Per passare il tempo sei andato un po' a teatro qualche volta? Sì, sì, mi sono abbonato al Piccolo, ho visto tutti i classici, e adesso dopo aver visto tutti i classici ho preso la chitarra elettrica in mano e ho scritto un disco, ecco, questo, così è andato. Allora, Giulio Casale, già in una vita passata cantante degli Extra, cantante solista, attore, anche se sì, attore in maniera un po'... Sì, ma molto personale, ecco, ecco. Sì, attore di me stesso. Esatto. Ecco, sì. Comunque persona che calca i palcoscenici dei teatri, dei club rock, dei festival, insomma, qualsiasi palcoscenico va bene, perché... Giulio sono anche selettivo e non proprio qualsiasi, sì, però va bene, cioè più diversi palcoscenici, certo. Ok, sì, di qualsiasi genere, diciamo. Una persona che ha molti interessi nella vita, interessi che poi vengono anche riflessi nelle per sue esempio canzoni. Nessuno sa che sono un ottimo fungaiolo, per esempio, e ti sto facendo uno scoop solo qui. Questa... sa, nessuno sa che io sono un grande fungaiolo e che passo le estati nei boschi del Sud Tirolo italiano e cerco di farmi incontrare dal porcino, dal fungo, senza mai raccoglierlo, perché questo mi contraddistingue. Capisco perché hai fatto il disco quest'anno, perché di funghi non ce n'era. Esatto. Uno neanche. E l'estate era deprimente, allora mi sono chiuso in uno studio. Vabbè, cari fan di Giulio Casale, sperate in un'estate siccitosa per avere una produzione discografica un po' più La serata parte veloce. Bene, la serata parte bene, attenzione, con un po' di, può solo peggiorare, una bottiglia di rosso qui a tenerci compagnia. Allora, io sono astemio. Il ritorno di Giulio è ritorno anche alla discografia come autore di canzoni, con questo album Dalla parte del torto, che è appena uscito. Non è ancora una settimana. Non è ancora una settimana. Noi ce l'abbiamo, l'avevamo prima la radio, ringraziamo il tuo entourage che ci ha dato l'opportunità di trasmetterlo in anteprima. Un disco molto, molto pieno, un disco molto denso, direi, di idee, di suoni, di cose, quindi ci sarà parecchio, penso, da parlare. Come facciamo sempre, ascoltiamo subito una prima canzone, così anche per gli ascoltatori che riescano un attimo a mettere a fuoco l'argomento della serata. La canzone si intitola Fine, e per cominciare la trasmissione magari non è il titolo proprio. Ma partiamo dalla fine. Partiamo dalla fine, giusto, e poi risaliremo. È un brano che ha un gancio, come si chiama così, un gancio melodico molto, molto potente, ed è il singolo, una volta si sarebbe detto il singolo, adesso non so perché... È il primo estratto. Il sì, primo estratto. È la prima canzone che abbiamo fatto sentire un mese prima dell'uscita del disco. Ecco. Diciamo ben prima di Sanremo, per non confondere le idee. Allora, ci ascoltiamo Fine da Giulio Casale e poi ne parleremo con lui. Irebil, irdai, ivai xinui, inamu irdai, iedale virinui, erre zorkele tutil, erdape zorkele tutil somero. Pa, pa, pa, pa, pa. Tu mangiavi sempre un fiore, mentre io facevo want. Just give me what I want. È la fine della festa occidentale. È la fine di un romanzo criminale. È la fine dell'impero occidentale. Glory, glory, hallelujah. Sempre più bel fiore del giardino. Io ho smesso di ritrarti. Ora noi sperimentiamo le distanze nell'egoismo delirante. Il futuro è una riga nera. Just give me what I want. Just give me what I want. Occidentale. È la fine di un romanzo criminale. È la fine dell'impero occidentale. Glory, glory, hallelujah. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Lady Day's got diamond eyes, she see the truth behind the lies. Lady Day's got diamond eyes, she see the truth behind the lies. There's Sissy Bone, there's Posse Paul, there's Johnny Cash, or Zimmerman, there's Jimmy Dean, there's Jimmy Joyce, there's Gustav Jung, there's Ziggy Freud, my noise. È la fine, è la fine, è la fine dell'impero occidentale. Glory, glory, dei, gli altri umani, gli uni schiavi, gli altri liberi. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, il brano si intitola La fine, non La fine o È la fine, proprio sei stato scheletrico. E naturalmente per aprire il significato a molti più, a molte più interpretazioni, come sempre. Può essere un brano anche sottile, no? Fine. Non ci avevi pensato. Non proprio, perché a me ha fatto molto effetto l'inizio con questi coretti quasi ye-ye. Cioè una cosa da beat, sì. I gruppi anni 60, appunto, quelli con i capelli a caschetto. Il pa-pa-pa-pa-pa. Esatto, cioè è una cosa particolarmente spensierata, che non è un aggettivo che ti viene spesso collegato, perché tu hai magari anche per questo aspetto fisico un po'... come dire, messianico. Sì. Hai sempre l'idea di essere uno che vuole fare grandi discorsi. Poi in realtà... anche ad esempio quando parli nei concerti, così c'è una leggerezza di base che credo sia la cosa che ti è rimasta dall'esperienza con Gaber. Può essere, sì, cioè, ma in realtà la cifra ironica è la cifra dell'ironia, era una cifra che mi ha sempre costituito, che diciamo che da però effettivamente dalla discografia ufficiale in poi, perché svelo, dico, ci sono molte canzoni degli Extra, addirittura precedenti alle due autoproduzioni degli Extra, che erano totalmente ironiche, erano canzoni rock acustico per capirci, ma con una scrittura totalmente divertita e divertente in molti casi. Poi è una cifra che, diciamo, nella metamorfosi del diventare mestieranti, del diventare scritturati da una grande casa discografica, si è un po' persa. E secondo me Alterazioni del 97 è stato il momento, diciamo, più... tra Alterazioni e Nord East Cowboys è stato il nostro momento più serioso, in cui, se posso dire, ci siamo anche presi sul serio. Ed è giusto che una band giovane... si prenda molto sul serio, che creda veramente di essere l'unica, no? Rock band al mondo, altrimenti sei fottuto. Se non ci credi tu, davvero, vale la legge dei Beatles per sempre: se non ci credi tu non ci crederà nessuno, questo è fuori di dubbio. Però, come dire, si era un po' persa una certa lievità, che in realtà mi ha sempre contraddistinto come persona, prima che come autore. Adesso mi piace ogni tanto lasciarla traparlare, per esempio negli incontri pubblici. In questi giorni sto facendo un po' tutti gli questa cosa che si chiama in-store tour, no? Per cui vado nei mega store dove si vendono i dischi e incontro il pubblico e parlo pubblicamente con le persone, poche, tante, che vengono a questi incontri. E la cosa che più stupisce le persone che per la prima volta hanno a che fare con me, e tantissimi vengono a dirmi: ma sei simpatico. È una cosa complimentone incredibile. La cosa più imprevista in assoluto è che io sorrida. Sì, appunto, dicevo, il riferimento a Gabriel è proprio la capacità di dire in maniera lieve, ecco, più che scherzosa, ma in maniera quasi spensierata, delle cose che poi in realtà sono anche abbastanza pesanti. E in questo disco ci sono diverse canzoni che mi pare rispecchino questa mentalità. E è bello perché, secondo me, dell'esperienza di Gabriel hai preso l'atteggiamento, ma non poi la parte, diciamo, esplicita. Perché la paura che avevano molti è: ok, Giulio Casale per quanti anni? 3-4 anni ha fatto Gaber in teatro, eccetera. C'era il timore, diciamo, che ti fosse entrato un po' troppo dentro, sì, insomma, sì. Che ti fossi visto da fuori forse faceva un po' paura, però adesso penso che d'ora in poi, ecco, perlomeno dalla parte del torto in poi, ma secondo me anche molto già con la canzone di Nanda, con The Beat Goes On, era chiarissimo che Gaber era stata una prova d'attore, e Dio sa quanto dura fosse, scusate, riferimento all'altissimo, dico, quanto dura fosse quella prova d'attore, insomma, solo un attore, ecco, può, o un regista può comprendere. 2 ore da solo sul palco, è come essere nudi. No? Bravissimo, cioè. Su un testo non tuo, su una partitura difficilissima per orchestra sola di Franco Battiato e Giusto Pio, cosa che nessuno ricorda mai, tanta roba, proprio tanta roba tutta insieme in una sera sola. Chi c'era alla prima si ricorda quanta tensione, quanto difficile fosse pensare che un ragazzo solo, che veniva dal rock, tra l'altro, e non dalla musica classica o dal teatro, abituato a averne 3 dietro che gli coprivano le spalle, abbastanza, diciamo. Bene, diciamo, ben protetto, no? Alle spalle, e invece lì da solo in scena per 2 tempi da 1 ora all'1, insomma, è tanta roba. Poi, voglio dire, è acqua passata, nel senso, quello che sto più che raccontando, quello che sto comprendendo in questi primi giorni di vita di dalla parte del torto è che tutto sommato forse finalmente anche per me, non solo per chi viene a vedermi, è chiaro che 10 anni di dialoghi con Fernanda Pivano, 2 anni e mezzo, 3 di tournée di Poli di allevamento di Gaber, 1000 altre esperienze che adesso è troppo lungo enumerare dato che non ho fatto niente per 7 anni, ma per esempio un libro di racconti con la Garzanti, bla bla bla bla, sono introiettate. Cioè mi ritrovo oggi davvero sereno nel voltarmi indietro, cosa che non faccio mai, cioè tendo a non voltarmi indietro, però mi ritrovo oggi a sentire sulla mia pelle che tutto ciò fa parte di me, non è più un riferimento, non è più qualcosa a cui tendere, non è più qualcosa nemmeno a cui dire grazie. Io sono capace di gratitudine, credo di averlo dimostrato molte volte, le mie note di copertina, non so, di Sullo Zero sono piene di grazie, grazie, grazie, grazie, cioè, grazie a tutti, veramente, cioè, grazie a tutti voi, io oggi ho fatto Sullo Zero. Ecco, oggi, senza aver ceduto di un millimetro rispetto alla buona educazione, all'etica, ai valori, al riconoscimento dell'altro, mi sento di dire: questo disco è mio, qui c'è la mia voce, c'è la mia scrittura, c'è la mia estetica, che è un'etica, cioè una ricerca di valori, è una richiesta di valori che io faccio oggi al mondo, e mi metto dalla parte del torto perché sento che i valori su cui più o meno tutti dovremmo essere d'accordo non sono più al centro del dibattito. E quindi mi chiedo: che fine ha fatto l'Europa, che fine ha fatto l'Italia, che fine ha fatto la solidarietà, che fine ha fatto la tolleranza, che fine ha fatto l'accoglienza, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Me lo chiedo io in pubblico e non ho più bisogno di appoggiarmi agli amici di Nanda o a Mario Capanna, nel senso del 68 come ideale utopico, mm-hmm. eccetera, o a Giorgio Gaber, no? Ho la necessità di dirlo con la mia voce, con la mia poetica, che non è poesia, ma è poetica, cioè appunto è una forma, è un'idea di bellezza, eccetera. Ecco, le mie gambe, la mia strana voce, così riconoscibile come mi riconosci tu, scusate se parlo lontano dal microfono a volte, è questa, è qui, è dalla parte del torto. Oggi, 5 marzo, cosa siamo? 5 marzo 2012? Sì, 5 marzo, sì. E io sono dalla parte del torto, e dalla parte del torto è Giulio Casale. Punto, è pieno di citazioni, è pieno di riferimenti, è pieno di... ma implicite. Chiaro. Ecco, scusa se l'ho fatta lunga. Ma no, nessun problema. Prima che ci suoni la prima canzone, per chiudere il discorso dell'attore, la mia purissima curiosità... Ti hanno chiesto di fare sceneggiati TV, cinema? Assolutamente roba, sì, assolutamente ero molto curioso di questa cosa. Assolutamente sì, e la mia risposta è stata no, grazie, ma grazie davvero. In realtà sono andato a fare 2 o 3 provini che mi interessavano, ma per il cinema, non per le fiction. Le fiction le ho prese in considerazione rifiutandole. Allora adesso però erano telenovela. Sì, sì, molto, c'era una tedesca bellissima. Molto no, tu bella. Serio? Sì, sì. 4 puntate per tipo la Rai 1 tedesca, in cui ero il bel tenebroso, bel amante di tutte, insomma, di tutti. Beh, c'hai un po' l'aria da tedesco, sì, occhi azzurri, capelli biondi. Dicevano che ero il problema è perché devono venire i tedeschi a cercare un biondo. Non lo so, qualcuno ha fatto vedere un filmato e hanno detto, è perfetto, è lui. Poi ho visto la sceneggiatura e ho detto, scusatemi, io... ho dei dischi, delle cose da fare. No, davvero, il cinema chiama, devo dire. Ci testerà questa... È da un po' di anni che mi chiama. Anche, addirittura il primo provino a Cinecittà lo feci nel 96, Metamorfosi era. Avevo i capelli rasati a zero, zero barba e zero peli. però ero io, me lo ricordo. Beh, ti resta sempre, diciamo, come uscita prima di sicurezza. Prima o poi, chi lo sa. Ma insomma, spero almeno in una storia minimamente strutturata, ecco. Allora, avvisiamo gli ascoltatori che Giulio è uno che si butta, giustamente, viste le esperienze ben più impegnative di una... Un po' di canzoni le so, casomai. Radiofonica, quindi non so cosa ci suonerà come primo Quando? Brano. Adesso? Sì. Wow! Non ero pronto, come sempre. Cosa ci canti? Non lo so, adesso la trovo, Ok, facciamo intanto, il nostro regista Agostino fa il suo dovere e ci sentiamo fra un attimo. Della sera e finisce per cantare cucur cucu paloma e giorni di digiuno e di silenzio per fare i cori nelle messe tipo a Mandalier. Dell'oro era appena l'ombra di Wall Street. La falce non fa più pensare al grano, il grano invece fa pensare ai soldi. E conosce più mestieri nuovi. Gli artisti pop, i manifesti a morire. I mantra, gli areare a mille lire. L'esoterismo di René Guénon. Una signora vende corpi astrali. I Buddha vanno sopra ai comodini. Deduco da una frase del Vangelo che è meglio un imbianchino di Le Corbusier. Fine, Mary, just like a woman, like a rolling stone, stone, stone, stone, stone. E questa era Magic Shop, un brano firmato da Battiato, che è anche compreso nell'album, l'unica cover di questo album. E abbiamo detto prima con Giulio, appunto, gli ho chiesto... Come si chiama il disco? Dalla parte del torto. Ah, ecco, non me lo ricordo. Dicevo con Giulio, appunto... Chissà cosa vuol dire sto titolo poi, ma dimmi, dimmi. Gli avevo chiesto che canzoni del disco voleva suonare dal vivo e la sua risposta è stata, non so, perché questo è un disco di canzoni... Elettriche, esatto, elettrificate, che non si possono suonare. Diceva Giovanni Lindo Ferretti, tabula rasa, elettrificata, quella roba lì. Esatto. Devo dire che... questa versione di Magic Shop fa sentire una è molto più lontana dall'originale rispetto alla tua cover, quindi mm-hmm. in un certo senso potrebbe essere stata anche più interessante, anche se mi rendo conto che dentro al disco fatta così sarebbe stato una specie di pugno in occhio, un alieno, cioè sì, una sì. cosa che non c'entra nulla col resto. Quindi ti ringrazio molto di averla proposta. Questa in realtà qui con prevedeva noi. Al suo interno, tu che sei un filologo della storia della musica, parole rock grosse. Qui dentro c'era Knockin' on Heaven's Door, Helpless di Neil Young e Magic Shop, almeno queste tre c'erano qui dentro, questa versione, poi chi se ne frega, sono quei tre accordi lì per tutti. Ma notavo anche che quando canti così a me ricordi sempre Eddie Vedder, un vecchio riferimento. Lo prendo come un complimento. Degli anni, beh, insomma, cioè, diciamo come non, un ho insulto. Detto, ho detto Eddie Vedder, non Gigi D'Alessio. Ah, ecco, me lo confermi. E allora parliamo di questo disco. Un disco se che. Vuoi, cioè, se dice Eddie Vedder, c'è quel. Non era pronto il jingle, però. C'è una tonalità terribile in questa cosa. I wish I was for once a neutron bomb, for once I could go off. I wish I was, non me lo ricordo, ma per esempio I wish I was a sailor with someone who waited for me. I wish I was as fortunate as me. I wish I was the evidence. I wish I was the sound of 50 million up raised hands and open towards the sky. Dire che wishlist. C'è questa roba, c'è nella mia chitarra acustica, c'è quella roba lì, quella roba lì. Poi so che i puristi dicono il grunge e si mettono due. Ah, beh, inutile. Parliamo appunto del disco, che è un disco molto, molto ricco, come ho detto prima. È un disco che devo dire, la mia impressione all'inizio è stata un attimo di smarrimento, prima di tutto perché... Ma meno male, ma per fortuna. Ho capito io alla fine il tuo trucco. No, prima di tutto è un disco molto diverso da In fondo al blu. I'm not a one trick pony, you know. Esatto. È un disco nel quale ti sei circondato da... Io ero molto, molto incuriosito quando avevo letto che c'era Antonio Gramentieri dentro. Grande musicista. Che non sapevo che tu avessi contatto. Infatti poi ho scoperto che vi siete contattati solo per questo disco. Io Antonio lo conosco per altre storie che non sto qui a raccontare. Spieghiamo che è il chitarrista, diciamo, principale di questo... Di questo disco, ma è uno che ha un background anche molto americano, molto lontano, se vogliamo, dalle cose tue per certi versi. Vicino anche a cose jazzate, insomma, è un musicista veramente notevole. Io l'ho visto suonare diverse volte e mi ha sempre molto colpito, quindi ero molto incuriosito da quello che sarebbe venuto fuori, che è, come era da immaginarsi, visto appunto il modo di suonare di Antonio, una cosa non immediata, cioè, è un disco questo che è fatto per essere assorbito col tempo. Sì, ci vuole tempo, ma per fortuna abbiamo tutto il tempo, nel senso che è un disco che, essendo un disco che vuole dal suo stesso interno in qualche modo smarcarsi dalle logiche commerciali, mercatistiche, per carità, cose che io non ho mai assecondato, ma come dire, ideologicamente il disco parla di quello, cioè parla del fatto che abbiamo ridotto la vita allo show business, o peggio a un talent show, ecco, più o meno il disco dall'inizio alla fine vuole mettere il dito contro quella cosa lì e dire forse meritavamo di più dalla vita in assoluto. E allora, per far coincidere, adesso la sto stracciando e mi violento dicendo, riducendo a queste due frasi il senso del mio lavoro, qui perdonatemi, però il senso è che la forma, per dire questo, non può tradire la sostanza, siamo solo semplicemente a questo. Allora tu non puoi fare un disco che ha questa ambizione persino eccessiva, persino un po' da chi ti credi di essere, bla bla bla, e poi fare delle canzoncine usa e getta, no? E sarebbe veramente paradossale, folle, non credo starebbe in piedi da nessun punto di vista. C'è qualcuno che continua a ripetermi che noi cantautori, che è una parola che non si sa più cosa vuol dire, siamo degli artigiani. Noi dobbiamo fare stare in piedi questo tavolo. Ci vogliono quattro gambe, fondamentalmente. Ma ci vogliono, appunto, bisogna conoscere il legno, bisogna conoscere gli utensili, bisogna farlo stare in piedi. La canzone non è molto dissimile da questo. Ha una strofa, un ritornello, quando va bene c'è un bridge, poi torna all'inciso. Più o meno, no? È un tavolo, più o meno un tavolo è un tavolo. Poi c'è il tavolo di Frank Lloyd Wright, c'è il tavolo di Carlo Scarpa e c'è il tavolo dell'IKEA, ma è un tavolo, no? A cosa serve un tavolo? A poche cose, tutto sommato, a parte alcune fantasie erotiche, insomma. Per cui dico, noi siamo quella roba lì, siamo quelli che devono fare stare in piedi una sedia, un tavolo, o appoggiare sopra un tavolo il nostro bicchiere, ecco. Non è tanto diverso, no? Ma l'importante è che il bicchiere non cada. È quello il fatto. E che soprattutto tu lo possa appoggiare sopra questo tavolo che si chiama il mio disco dalla parte del torto, anche fra 20 anni, anche fra 30 anni. È questa la sfida per un cantautore. La tua canzone, che non è solo il titolo della prima canzone, ma la tua canzone di autore, sarà bello se i tuoi figli, quando la metteranno su, diranno sta in piedi. La posso ascoltare anch'io, ecco, c'è troppa musica italiana di consumo di oggi, ma è troppo facile dirlo da questi microfoni, che non sta in piedi e che sicuramente i miei figli disconosceranno totalmente, magari oggi è un grande successo commerciale. Sì, beh. Partiamo un po' da lì, ecco. Il prossimo brano che ascoltiamo dall'album si intitola Apritemi. Aia, ma allora io vado a fumare. Secondo me è il pezzo più vicino alle cose che hai fatto in passato con gli Extra, ed è molto interessante ascoltarla perché secondo me dall'idea di cosa sarebbero potuti diventare teorica, in maniera molto teorica, agli Extra. È interessante questo. Infatti, al concerto dell'altra sera, dove c'erano molti vecchi fan degli Extra, ho potuto verificare. Tu c'eri al concerto dell'altra sera? Io c'ero. E ho visto che fra le canzoni nuove è stata quella che è stata apprezzata subito da tutti, perché E la cosa strana è che invece io la prima volta che ho sentito il disco non mi ha colpito particolarmente. Devo dire che è una canzone bellissima, è una canzone veramente potente. Però a te non piace, mi piace davvero, però io evidentemente stavo ascoltando il disco in maniera diversa la prima volta, stavo cercando di andare già sotto al meccanismo, no? Perché mi aspettavo, leggendo appunto come era stato fatto e chi c'era dentro, non l'ho ascoltato come ascolto di solito i dischi, così. Vedi che sono sempre dalla parte sbagliata, dalla parte del ti metto sempre in una condizione comunque diversa. Adesso la facciamo ascoltare anche ai nostri ascoltatori, così si fanno la loro idea. Apritemi. Sì. Lo specchio dietro al bar mi vede bere a gocce ancora. Sto al limite del limite, o forse un ulteriore. Ricaccio indietro lacrime, niente autocommiserazione. Ti fuggono se dici male, ma ciao, come stai? Che razza di universo è questo in cui non riesci mai? Che tu sia vero o compromesso, comunque hai sempre perso. Apritemi, apritemi, non ho mai smesso di bussare. Apritemi, apritemi, per chiamare, apritemi. Non rivelarsi mai è la regola per voi. Sai difenderti, recitare o indurirti più che puoi. Beh, io non ho più voglia di ascoltarvi chiacchierare di cronaca o spettegolare su un amico che non c'è. Mi fa sempre più specie la vostra equidistanza, perpetuo adeguamento al peggio che aiutate. Ma apritemi, apritemi, con chi altri dovrei stare? Apritemi, apritemi, non ho più voce per chiamare, apritemi. Io vi risparmierò il mio nero, a costo di essere insincero. Questa era Apritemi. Di nuovo in diretta dalle frequenze di... come si chiama? Blu Radio Veneto. Sì, io non lo dico perché abbiamo gli stacchetti, il nostro regista provvede a... Siamo in diretta comunque, lo confermo, è tutto vero, sono le 23.08 e 47, sentire... 48, 49, 50 secondi. Sono sogno solo. Finito. Avresti potuto far sentire anche il Cabernet che... Ah no, scusa, era quello che volevi far sentire. Era sempre un bel suono, no? Cioè, siamo veneti. Chiaro. Allora, non io, purtroppo. Beh, quasi, dai. Sei veneto d'adozione. Sì, è vero. Alcolica, almeno. No, no, no, io sono astemio, ma il punto vero è che sono nato è e cresciuto... È il vino che non lo so. No, è che sono nato e cresciuto a Treviso. Il punto vero è quello. Però è anche quello è bislacco, è bizzarro. Nel senso che tu abbia scritto l'unica canzone in cui viene citato Treviso. Può darsi, perlomeno l'unica canzone nazionale che forse cita qualche Treviso. Canzone degli Alpini ci sarà. Appunto, ecco, l'unica canzone che si è sentita in Sicilia che cita Treviso, ecco, forse quello qualche sì. Siciliano che prende il ma c'è un bisticcio etnico dentro di me. Mia nonna era slava, mio nonno, mia nonna materna era slava istriana, mio nonno paterno era al confine, veniva dal confine, non ho mai conosciuto il nonno Casale, veniva dal confine, era Casale perché era casalese, adesso senza nessun riferimento, ah. era al confine tra la provincia di Latina e Caserta. Mio padre e mia madre sono nati e cresciuti a Milano, mia mamma di cognome faceva Cattaneo, quindi molto milanese, e mia sorella, che è più grande di me, è nata a Milano. E a un certo punto c'è stato un trasferimento a Treviso, ecco, mi fa abbastanza una sorridere. Una bella coincidenza. È proprio così, ecco, poi si fa della biografia quel che si può, ma io devo molto a Treviso, devo ogni sofferenza e quindi ogni apertura alla sensibilità, perché questo è essere sempre additato come diverso, strano, ma chi ti credi di essere, ma cosa vuoi dire, ma cosa vuoi sembrare, no? Tutta questa menata. Chi è che ti aveva, qui. Aveva cominciato a chiamarti estremo? Mi aveva chiamato estremo questi pochi amici che avevo al liceo classico Antonio Canova di Treviso, dove mi sono diplomato assieme a tutti i figli della Treviso Bene, e naturalmente io non facendone parte perché non ero particolarmente di una famiglia particolarmente agiata, ma sembravo, mi dicevano, tu sei estremo, perché su tutte le cose io sembravo avere idee molto chiare, per esempio sulla musica. Io ho sempre considerato che ma i gusti... Sembri ancora avere idee molto chiare. Ma sì, ma tutto sommato mi disapprovo, e questo è per questo che dico dalla parte del torto, perché comunque mi disapprovo anch'io, non c'è problema, quindi potete farlo tutti liberamente. Però voglio dire, in pieni anni Ottanta, perché di questo si tratta, io avevo una mentalità, un gusto, un'attitudine al gusto musicale che era effettivamente molto rigida, e ogni rigidità è un limite, lo riconosco io per primo, però mi sembrava interessante porre una linea di demarcazione, cioè se ascolti in quel momento, per dire, gli 883 o il primo Jovanotti, secondo me abbiamo pochi punti in comune, diciamo, a livello estetico, cioè a livello di visione, quindi di dov'è la bellezza, no? Poi io non ce l'ho né con Max Pezzali, che è un ottimo artigiano, no? Nel costruire strofe e ritornello, sto parlando di quello, e tanto meno con Lorenzo Cherubini. Dico semplicemente che in pieni anni Ottanta ascoltare i Cure, ascoltare i Dream Syndicate, ascoltare i primi REM era un pochino più coraggioso che ascoltare i primi Depeche Mode, per esempio. Ecco, parliamo di cose serie. Io non riuscivo ad ascoltare nemmeno i primi Depeche Mode, mi sembravano troppo collusi con il suono. Con il suono dell'epoca. Con l'usino. Vabbè, no. Insomma, ma è un mio problema, perché poi ho scoperto che i Depeche Mode sono una grande band. E quindi vedi che in realtà è un limite, no? A volte metti dei paletti che sono troppo stretti sul gusto. Però il gusto è importante. Non è vero che va bene tutto, che c'è un momento per ascoltare la techno, un momento per ascoltare la lounge, un momento... Cioè, sì, ci può essere un momento per tutto. Però la roba bella, bella, bella, bella è poca, tutto sommato. Una roba, diciamo, di peso. Sì, quella che veramente ti può, come dire, molte virgolette, cambiare la vita, no? Quello che ti cambia la vita è poco. E però se ti cambia la vita ci sarà un perché. E allora è inutile, io non posso più prescindere a 40 a 40 anni, non posso più. D'altra parte la vita comincia a 40 anni, ma non posso più fare finta, non posso dire vabbè, no, scherziamo, non ce la faccio, ma a parte che non ce l'ho mai fatta, io sono ironico, scherzoso, ma non ce l'ho mai fatta a, come dire, non mettere tutto me stesso in quello che faccio. È un mio limite, me ne rendo conto, però io sono qui, in questo momento sto parlando ai microfoni di Radio Veneto, Blu Radio Veneto, e non sto scherzando neanche per un po', cioè sono qui, e quindi io quello che posso dire di me, della mia musica o della musica che faremo sentire, non so se ci sono altri artisti in scaletta, non ho la minima idea, ma con, volentieri. Con tutte le canzoni che hai, mi prenderei che per questa sera gli altri possono prendersi una serata di riposo. Buon per loro, perché io non ho giorni di riposo. Volevo parlare ancora con te un attimo del disco, ma magari prima ci canti ancora qualcosa, posso chiederti questo magari piacere del tuo limitato repertorio. Magari, cosa potrei... Ce lo dici prima stavolta? Ah sì, scusami, no, perché ho un impegno. Farò un pezzettino breve, sunto di una mia canzone che concludeva il mio primo disco solistico, si dice così, che si chiamava Sullo Zero, la canzone che avevo scritto apposta per la sigla di quel primo, tutto sommato, spettacolo teatrale, in qualche modo, embrionalmente. Ecco, Sullo Zero la canzone si chiama La Strada. Cos'è per te sudare freddo? Non è solo chimica. Cos'è per te morire lento? Una strana forma di allergia. Tu cosa fai quando ti esplode tutto dentro? Tu cosa fai quando ti crolla tutto dentro? Scelgo la strada, scelgo la mia voglia infinita di illudermi, di illudermi. Poi scelgo la strada, scelgo la mia voglia infinita di illudermi. Fiorire, non andare via, non andare via, non andare via. La strada, allora, era questo. On the road again. On the road, sì. Poi ascolteremo naturalmente anche canzoni del disco che sei qui a promuovere, ah, sì? Per ricordarti questa. Stavo per dimenticare. Un ottimo businessman. Io? Sì, didn't think so. Allora, no, tornando appunto, come avevo annunciato, I'm always on the wrong side, you know. A parlare dell'album, con gli ascolti, io mi sono accorto che questo è un disco che è pieno. Come si chiama il disco? Il titolo del disco? Dalla parte del torto. Edito da... Me lo ricordo. È un disco che in realtà è pieno di ritornelli, di frasi che si memorizzano, però nella produzione l'avete un po' messo in secondo piano, cioè, mentre di solito la produzione, le produzioni, diciamo, commerciali, chiamiamole come vogliamo, mainstream, puntano a mettere queste cose in primo piano, tu le hai come nascoste. Per esempio? Mi è venuta in mente, no, un po' di tutte le canzoni ci sono alla fine, cioè mi sono accorto che cioè ci sono in punto le canzoni, tu le avevi scritte probabilmente in maniera molto diversa, sto tirando a indovinare da come sono venute poi nel disco quando ci hanno lavorato sopra questi fior fior di collaboratori, ma questo atteggiamento a me ha ricordato una band con cui non avresti niente a che vedere solitamente, gli XTC. Eh beh, è un po' che non li ascolto in effetti, che avevano, non è riferimento dei immediato, potenziali hit pop fantastici e poi li seppellivano sotto delle genialate pazzesche, infatti hanno venduto pochissimo rispetto al talento mostruoso che avevano. E la mia idea è che tu hai fatto un disco dicendo ok, la gente che mi interessa è quella che ascolta in maniera più approfondita. Sì, questo è senz'altro vero, e soprattutto la gente, lo so, la gente è un brutto termine. Sì, sì, no, per carità, scontato veramente il problema di dire, cioè di dare un nome alle cose, che purtroppo lo sconto, cioè lo do veramente per scontato, cioè lo sconto sulla mia pelle tutti i giorni, essendo io uno che scrive, lo soffro io per primo, per cui non fartene tu carico in questo momento, te ne prego. Dico che la gente, si rischia di dire una banalità, ma è molto più sensibile, molto più attenta, molto più intelligente di quanto chi governa il mercato ritenga. Se no, per esempio, Vinicio Capossela, adesso dico una, facciamo un esempio, ma è un esempio a caso. Allora, Marinai, Profeti e Baleni, credo di citare correttamente, ma mi perdonerà il mio vecchio amico Vinicio Capossela, è un disco che loro signori della major per cui lui pubblica non volevano pubblicare. Ah, non mi stupisco. E certo, è un disco diciamo non semplicissimo come costruzione, come durata, come argomenti, tematiche, diciamo non c'è un singolo, ecco, no? Perché poi tragedia in mano. Perché poi è quello il punto, non c'è il pezzo. Bene, Marinai, infatti, bene, mi risulta da una ansa che mi hanno passato un mese fa, due mesi fa, non mi ricordo, il tempo non esiste. È tra i primi 20 dischi più venduti in Italia, non più graditi, perché il gradimento era fuori discussione ormai da parecchi anni per il buon Vinicio Capossela. Parliamo di vendita, parliamo di mercato, parliamo di classifica, parliamo di denaro, parliamo se vogliamo di denaro, proprio di indotto, di sfruttamento, di edizioni, di tutto quello che l'industria culturale è capace di produrre e a cui, come dire, dare corpo, dare seguito, dare cura. Ecco, stiamo parlando di questo. La gente è molto più sensibile, molto più avanti, molto più allerta di quanto l'industria musicale, che è alla canna del gas, perché si dichiara e lascia a casa decine e decine di dipendenti ogni giorno, gli uffici stampa, gli uffici delle edizioni, tutti a casa, perché non c'è più lavoro, non c'è più indotto dall'industria musicale. L'industria musicale cosa fa? Da 10 anni a questa parte, da quando si vende sempre meno, punta sempre di più sulle cose di consumo. È un circolo vizioso di cui loro sono i primi responsabili. Qui si potrebbe aprire una lunga parentesi sulla scena musicale rock degli anni 90 italiana, che è stata massacrata da loro signori. Forse la scena più ricca, con un potenziale, no? Il ventaglio della scena rock italiana degli anni 90 è qualcosa che forse ci siamo dimenticati, ma la quantità di espressioni, di estetiche, di visioni del mondo, di visioni della musica, no? Dalla musica sintetica alla musica rumoristica, a non so, un gruppo che io adoravo che si chiamava Massimo Volume, in cui non c'era neanche una canzone cantata. Lasciamo stare, dico la quantità di bellezza che c'era negli anni 90 in Italia, e tutti avevano un pubblico e tutti facevano migliaia di paganti ai loro concerti. Chi è rimasto di quella scena? Due nomi, ma non importa, dico appunto, sì, ma due nomi su decine. Sì, ma e comunque rimasti. Sì, vabbè, adesso rinchiusi, poi, diciamo. Ok, dico. Perché io posso dirti che ho degli amici stranieri, come sai, anche musicisti, e a questi io ho fatto sentire i tuoi dischi con gli Extra, ho fatto sentire i dischi degli After Hours o dei Marlene. Bene, diciamo, parliamo, mi sento in buona compagnia. Parliamo di gente che, oltre ad essere musicisti, insomma, ascoltano parecchie cose. E mi hanno detto chiaro e tondo, questi sono gruppi che se fossero stati in America, qualsiasi casa discografica ci avrebbe puntato. Una cosa che mi chiedevano, ma questi erano bravi anche così, anche dal vivo? Perché anche di più a volte. Detto, guarda, quando dicevo, guarda, io di concerti ne ho visti un po', insomma, ti assicuro che adesso non dico gli extra, non perché ci sei qua tu, insomma, ma ho anche gli After Hours, li hai visti anche tu, o i Marlene. Dal vivo non hanno niente a invidiare alle band che riempiono gli stadi in giro per il mondo, cioè l'hanno, avevate voi, hanno ancora loro quel peso, io dico, cioè quella capacità di avere un suono che ha una densità proprio, cioè che colpisce l'ascoltatore, sì, a livello emotivo. A livello emotivo, no? Allora dico, i nostri discografici fatto, erano dei poverini con una vista corta. Allora, insomma, scusami, è proprio questo. Io parto da lì, oggi che torno, come giustamente tu, siamo partiti da lì credo un'ora fa, insomma 50 minuti fa, torno alla discografia e nessuno mi potrà certo accusare di tornarci per diciamo, brama di lucro, no? Cioè, non è certo un momento in cui uno dice certo, facevi meglio a fare la telenovela tedesca, appunto, se posso fare la commercialista, come diceva Iannacci, fai figli perché c'hai figli da mantenere, no? Ecco, non è questo diciamo il caso di specie, io ho i figli da mantenere, ma non mi sembra che fare dischi oggi sia un grande business, anche perché non ci va più nessuno nei negozi, e questo è un altro dramma. Adesso XL di Repubblica fa la rubrica sugli ultimi no, i Panda, gli ultimi resistenti che hanno ancora il negozietto di provincia, ecco, c'è qualcuno che non ha fatto nemmeno in tempo ad avere quella rubrica, perché nel frattempo abbiamo decine di Moria, sì. Ecco, di dispersi, perché non c'è più nessuno che va a comprare i dischi. Allora, al di là di questo, ma chi ci ha ridotti così? Sono loro signori, quelli proprio che hanno in mano le leve del potere, che nel momento in cui tutto crollava chiedevano alle migliori band italiane: guardate che il mercato non è quello che pensate voi, è un'altra roba, allora dateci prodotti scadenti, con un linguaggio scadente, con un'estetica scadente, immediatamente comunicabile al grande pubblico, che è stupido per definizione, vuole solo cose iper semplificate. E ecco, grande pubblico che è così stupido che ha scoperto che poi la musica poteva scaricarsela gratis. Infatti questa è la ma non solo, aggiungo, perché non sarei onesto, i grandi mezzi di comunicazione, perché non ci sono solo le case, c'è la veicolazione delle opere. Allora io non ce l'ho con nessuno, ma nel momento in cui io o il mio amico vero, che gli voglio bene, Marco Castoldi, siamo costretti, e naturalmente io non l'ho mai accettato, ma siamo costretti per avere la pagina su Repubblica o sul Corriere della Sera ad avere una storia con un'attrice di più o meno indubbio talento, beh, allora capisci che quando io chiamo una canzone personaggio comune è un doppio e triplo salto mortale, perché io so che il personaggio comune salva il mondo potenzialmente, utopicamente, è la persona normale che lo salva il mondo, non certo un personaggio, non certo un VIP, non certo uno che va tutti i giorni a Rai 2 a fare il gossip al pomeriggio. L'opinionista. Ecco, non certo quell'opinionista lì lo salva il mondo, no? Che ha un'idea su tutto e un giudizio su tutto e non sa cos'è la vita, però, tra parentesi. Ma il personaggio comune è la rivoluzione. Il problema è che noi musicisti, per avere visibilità, dovevamo e dobbiamo ancora, ma sta per finire, attenzione ragazzi, sta per finire tutto, è la fine, davvero la fine, ah, glory glory, alleluia, è la fine, sta per finire tutto, ma noi per avere la pagina sui migliori quotidiani italiani dovevamo diventare personaggi del gossip, noi della scena migliore musicale italiana. E chi ha detto sì è una cosa, chi ha detto no è un'altra cosa, ma il 90% di quelli che hanno detto di no stanno facendo un mestiere oggi, cioè sono degli impiegati, sono degli stipendiati da 1.000+ euro al mese e sono dei grandi talenti musicali. Ecco, e io ho un lutto per tutti loro, non perché io non sono privilegiato per niente, sono qui per sbaglio e per fortuna, ma ogni giorno un pensiero per chi non ce l'ha fatta, costretto a non farcela, da un insieme di fottimenti, di valori, che sono il contrario di quello che la musica dice, prevede e, come dire, a cui allude. Perché la musica allude sempre a un mondo, se vuoi alla Adorno, al paradiso in terra. La musica sta parlando di quello, sempre, quando tu godi davanti a un musicista, perché lui ti fa sentire che la vita è possibile. Questa vita è possibile, non appunto quella ultramondana, quella dopo la morte, quella benissimo, per chi ci crede è perfetta, ma stiamo parlando di questo mondo qui, stiamo suonando oggi in questo locale, sfigato o no, e io ti faccio sentire che se tu risuoni con me, sorridi, esci dal concerto e dici wow, ce la possiamo fare. Infatti la musica dal vivo, pur essendo in crisi, l'ho fatta lunga, devi interrompermi. Meno grave, beh, insomma, sei tu qua l'ospite. Dicevo che la musica dal vivo, pur essendo in crisi, è comunque meno in crisi della discografica. Ma certo, i gruppi stanno meglio delle major, i gruppi stanno meglio persino delle etichette indipendenti che li producono. I gruppi stanno benissimo, il problema è qual è lo spazio, come fai, che voce hai in capitolo. Se il dibattito pubblico è ridotto a gossip, a pettegolezzo, che voce hai, capito? Tu sei lì con un'estetica della Madonna, hai scelto l'amplificatore, hai scelto la chitarra, hai scelto il rullante, hai scelto il produttore migliore del mondo, e poi vai in televisione e ti dicono ma lei cosa ne pensa dell'ultima esternazione di Sara Tommasi, e tu dici ma scusate, io ero qui per suonare una canzone. No, vabbè, scusi, lei dica la sua, ma io, a me non mi frega niente di quello che dice Sara Tommasi. Allora non vieni più nello studio. E infatti non verrò più nello studio, me ne farò una ragione, scusatemi, io sono uno che scrive canzoni, non ho un'idea su tutto e tantomeno su certe cose, scusate. Sì, comunque il gossip impera. Tornando alle canzoni, Senza direzione è una canzone, è la canzone più lineare del disco, direi, quella che è basata su una linea melodica quasi spensierata, quasi lo sottolineerei. Il testo poi non lo è così, non è così leggero, però è anche forse la canzone più tradizionale, se vogliamo, di questo disco, ed è una melodia assolutamente incantevole. Allora adesso ce l'ascoltiamo, è Senza direzione, poi torneremo qui in studio con Giulio Casale a Blu Radio Veneto. Ti scioglierà la rabbia dentro, la tua delusione. Per tutto il nostro tempo, senza direzione, vien voglia di menare le mani, di rompere tutto, poi rimandi al domani. Nina, chi darai le perle del tuo cuore, a chi racconterai tuo padre che piangeva la sera che ha capito no, non doveva giocare con te. Per tutto il nostro tempo, senza direzione, vien voglia di menare le mani, di rompere tutto, poi rimandi a domani. Non ti curare degli sguardi della gente, sono tutti lì a scandalizzare, poi di niente. Di tutto il nostro tempo, senza via d'uscita, hai voglia tu di resistere a tutto, sorridere sempre fino a non respirare. Nina, cosa vedi lungo la statale? Chissà se puoi sentirmi da lì, non mi capire male, che almeno ti accompagni il suono di questa mia canzone. Per tutto il nostro tempo, senza direzione, il tempo di giocarsi il domani, di mollare tutto. E ritrovarsi da soli, e ritrovarsi da soli, e ritrovarsi da soli, da soli, da soli, a ritrovarsi da soli. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Questa era Senza Direzione, bellissima melodia ariosa con un giro di chitarra un po' jingle jangle, abbastanza diverso direi dagli altri brani di questo album dalla parte del Torto. Allora, Giulio sta finendo la sua sigaretta rigorosamente fuori dagli studi dove non si può naturalmente fumare e quindi parlo un attimo dell'album che è stato prodotto e arrangiato da Giovanni Ferrario, che è stato un braccio destro veramente importante. Ferrario è un personaggio che ha fatto la storia del rock italiano, aveva collaborato con Giulio all'epoca di Tunnel Supermarket, l'ultimo album degli Extra, ma poi ha avuto la possibilità di entrare in contatto con realtà di livello di caratura mondiale come PJ Harvey e tanti altri, e insieme a lui che suona fra l'altro un po' di tutto, perché vedo basso, organo, piano, armonia, tastiere, chitarra acustica e programmazione, c'erano il suscitato, già citato Antonio Gramentieri, che ha suonato la chitarra elettrica, la chitarra baritono, l'upsteel, la slide, il bass 4, che penso sia un basso a quattro corde, ma sono tutti a quattro corde, quindi probabilmente è un'altra cosa. Ha suonato anche una 12 corde e una chitarra preparata, la diamonica, che è uno che con gli strumenti a corda fa veramente quello che vuole. Poi ci sono Diego Sapignoli alla batteria, percussioni, vibrafono e percussioni elettroniche, Alessandro Fabbro alla tromba, Paolo Botti alla viola e violino, Marco Tagliola fischio, sarebbe il caso di chiedere a Giulio che cos'è, Binson and Roland Echo. E naturalmente appunto è Giovanni Ferrario, il Deus Ex Machina dietro a questo disco, ha creato intorno alle canzoni un vestito letteralmente di suoni, sempre ricco e soprattutto mai banale. Ecco, questo è un disco, come ho detto prima anche a Giulio, è un disco che richiede una certa attenzione. Al primo ascolto, lo dico proprio, ero rimasto un attimo perplesso perché non sono riuscito a capirlo subito, e invece la bellezza appunto dell'album viene fuori con il succedersi degli ascolti. E l'album si apre e si chiude con lo stesso brano che si intitola La tua canzone. E in apertura la versione diciamo elettrica, mentre il finale è fatto in maniera acustica. E allora adesso ci ascoltiamo appunto il brano che apre l'album, la versione elettrica di La tua canzone. La tua canzone e non farmi sconti che non è stagione, appiccicami a un muro fuori e dopo spogliami di indecisione. Cantami la tua canzone e non sa cosa è Pasqua ma è resurrezione, buttami nel vetro plastica e riciclami senza dolore. Cantami ma non d'amore, che non basta gli occhi in tutto questo orrore. Cantami la tua canzone che sorella a tutti e dice di un altrove. Cantami mentre mi guardi, fammi sentire che non è già tardi. Cantami questa canzone con lei plasma. non ha un senso se io non comprenderò, è un'arroganza anche dire io. Cantami di belle aurore, da infilarci il petto e i muscoli del cuore. Toglimi qualsiasi maschera, la sfiga, la rassegnazione. Canta senza più fermarti, fammi sentire vivo in mezzo agli altri. Cantami questa canzone ancora, plasmami per ore ed ore. Così, così, così, così. E se non smetti per un po' io fosse nuovo, forse esisto, se non smetti per un po' io, forse trovo, forse esisto io. Cantami la tua canzone e non farmi sconti che non è stagione. Appiccicami un muro fuori e dopo spogliami d'indecisione. Cantami la tua canzone, non sa cosa è Pasqua ma è resurrezione. Buttami nel vetro, plastica e riciclami senza dolore. Così, così. Cantami ma non d'amore, che non basta agli occhi in tutto questo orrore. Cantami la tua canzone che sorella a tutti ma dice di un altrove. Cantami mentre mi guardi, fammi sentire che non è già tardi. Cantami questa canzone, con lei plasmami per ore ed ore. Così, così, e se io non comprenderò, io non comincio. Non ho un senso se io non comprenderò, è un'arroganza anche dire io. E la versione acustica della mia canzone e l'abbiamo... La tua canzone, non la mia. Sì, scusa, la tua canzone, è vero? mi sono ingambelato. Questa è tua. L'abbiamo sentita dal vivo e c'è anche nel disco, un pelino più arrangiata, ma insomma abbastanza simile a come l'abbiamo sentita adesso. E l'ha intitolata la tua canzone Number 9. E tu sai. Un piccolissimo riferimento a una band che pochi conoscono. Sarà che sì, anche sì. L'album è tutto bianco, la copertina. Forse. C'è un aggancio abbastanza esplicito. Sì, ma a Liverpool si facevano di brutto e non è, sì, non è un riferimento. Erano a Londra. Sì. Allora, noi siamo molto più puliti oggi. Venerdì scorso hai suonato per la prima volta le canzoni di questo album New Age Club dal vivo, sì. Ed è stato... Invece dopo domani sono a Verona, dopo domani sono a Milano, venerdì sono a Montepulciano, sabato siamo a Copertino, che è in provincia di Lecce, da cui viene uno dei miei santi preferiti, ci tengo a dirlo, qui, posso dirlo, qui, da questi microfoni, che San Giuseppe d'Esa da Copertino è sempre stato un mio riferimento. Ma nella era vita. Era il protettore degli studenti. Assolutamente, era uno che lievitava, che parlava con gli uccelli, molto prima di San Francesco, per dire, o dopo, ma è uguale, cioè era un invasato totale, davvero un rocker, ecco, uno che aveva abbandonato la famiglia classicamente borghese e aveva fatto la sua rivoluzione, solo la sua. L'hanno canonizzato molti secoli dopo, suo malgrado, perché lui non ci teneva minimamente. In realtà aveva forse subito il cattolicesimo come linguaggio e quindi dava gli stessi nomi alle cose che tutti i mistici di tutto il mondo sentono, vedono e raccontano. San Giuseppe Desa da Copertino è un mito per me, è proprio, e quindi ogni anno vado a Copertino a fare una serata anche gratis pur di rivisitare la casa di San Giuseppe, tutti i luoghi, bere quel vino, mangiare quel cibo, vedere il Salento che è uno dei posti più spettacolari d'Italia. Concordo. Assolutamente. Tra l'altro sembra di essere in America. E tra l'altro, appunto, è molto rock and roll. Ci sono queste strade bianche, bellissime, questi ulivi maestosi, il mare, non ne parliamo, eccetera. Ma la generosità del popolo salentino e la musicalità del popolo salentino è una risorsa italiana, tutta italiana. Non so quanti veneti siano in grado di come dire, veramente di entrarci in contatto, ma è un vero peccato, dico solo questo, non ce l'ho con nessuno. Sì, è un altro mondo rispetto al Veneto. Dicevo appunto, per te è stato un ritorno sul... Arriviamo al punto, mancano pochi minuti. È stato un ritorno su un palco rock con una band di gente... Degna anche, di questo nome, direi. Degna di questo nome, una band anche di gente che picchiava con una certa energia. Volevo per primo il batterista degli Estra, mi sembra. Beh, grande sempre. Grande, anzi, che più grande, direi, veramente sì. È una macchina. E... volevo sapere da te un po' come, a livello proprio interiore, è stato un ritorno a casa, è stata una nuova esperienza, perché era anche la prima volta che suonavi il rock senza gli Estra in pratica. Sì, è vero, anche se poi eravamo a un certo punto 3 su 4. Sì, poi è arrivato Abbe, diciamo, per i vecchi fan della band è stato un momento da lacrimoni, vabbè, ma questo... Sì, però è un di più in effetti. È stato poi, la ciliegina, diciamo. Sì, in giro per l'Italia Abbe non ci seguirà, quindi siamo solo 2 su 4, però Giovanni Ferrario al basso, Lorenzo Corti alla chitarra elettrica, Pier Ballarin che è un giovane polistrumentista di Brescia che ha una sua band che si chiama The Records, è molto interessante, lui secondo me è uno di quelli che dirà qualcosa, perlomeno nella scena cosiddetta indipendente, che non vuol dire nulla, perché è musica, stiamo parlando di musica italiana, cantata in inglese o no, ma è musica fatta in Italia in questo momento. Devo dirti che sì, certo, da un certo punto di vista sono tornato a casa, non fosse altro per il fatto che il mio primo concerto risale al 1989 e guarda caso si è svolto in Treviso, per cui se devo ricominciare, per me è naturale pensare di ricominciare da Treviso, non è dovuto ma è naturale, ecco, voglio dire questo, e quindi volentieri lo faccio tutte le volte che posso. Altro è dire che le istituzioni trevigiane non mi hanno mai più chiamato a fare qualcosa, non importa, è una polemica vecchia, è passata, del resto sono in ottima compagnia, nemmeno Marco Paolini, nemmeno Monio Vadia, nemmeno Scagno Celestini hanno mai lavorato al Teatro Comunale di Treviso, per cui non è così, cioè non sono una vittima particolare, no? C'è un clima che c'è in quella città come in tante altre città del nord Italia, non importa, vedremo poi. Il tempo è galantuomo. Sì, abbiamo tempo, abbiamo tutto il tempo. Quello che è bello per me invece è credere veramente profondamente, dico l'unica cosa seria adesso, nella metamorfosi. Io continuo a citare quel disco degli Estra in tutte le conferenze stampa, in tutti gli incontri, in tutti i comunicati stampa, qualsiasi cosa voglia dire questa espressione, perché è per me programmatico. Io non sono una persona che ha un'ideologia, non credo nell'ideologia, ho sempre non confidato troppo in nessuna ideologia, forse anche la migliore al mondo, perché mi sa di rigidità, no? Di chiusura. Invece credere semplicemente nel proprio stesso mutamento, che è un fatto biologico, non è un fatto ideologico, è il fatto che tu non sei mai più la stessa persona, no? Ho visto le tue foto prima, tu non sei esteticamente la stessa persona. Eppure magari sei molto migliore oggi di quanto eri quella volta. Sì, anche parecchio di più. Dico, non ce l'ho con nessuno. Dico. C'è la qualità, ma c'è anche la quantità che incide, okay. Insomma. Ma dipende, poi invece c'è il caso contrario, no? C'è chi invecchiando, come dire, si asciuga. Disidratato come te. Non mi parlo addosso. Voglio dire, è un fatto di assecondarsi, ecco. Ma volevo chiederti... Allora scusami, questo è il senso, questo è il senso, è assecondarsi. Oggi per me, dalla parte del torto, queste 12 canzoni sono la cosa più sincera, più autentica, più viscerale, ma più elaborata ovviamente, che io possa dire semplicemente quello che posso regalare di me oggi è questo, non ha prezzo, quindi scaricatevelo gratis, non c'è problema. Il punto è che è l'unica cosa che posso dire, non ho scelta nel momento in cui mi sono messo per l'ennesima volta, ma come dire, definitivamente dalla parte del torto. È quello che sono, è quel poco che posso dirvi oggi di me, ma cioè di noi, perché in realtà Apritemi non parla di me, è così che personaggio comune non sono io, Nina non sono io, eccetera eccetera. Quello che posso dirvi oggi è questo, se c'è qualcuno che mi ascolta bene, se no io quello che dovevo dire l'ho detto, no? Ecco, quindi è certo, è tornare a casa, è tornare all'inizio, ma non si torna mai veramente a casa, perché la tua casa è la prossima, è il prossimo albergo per quanto mi riguarda, è il prossimo locale, è domani alla FNAC di Verona, è mercoledì alla Salone Maria della Musica di Milano, quella è casa, non è una, è tutte, è la prossima. È la prossima cosa che sarò in grado di concepire. Dove butti il cappello, diciamo. Certo. Tu le sai tutte. Ma no, quello che, tornando al discorso del concerto, sono passati un po' di anni, no? Quando sei salito su quel palco, ti sei risentito come 10 anni fa o ti sei reso conto che sei un'altra persona, anche se poi sul palco... Sono vere tutte e due le cose. Era un cortocircuito temporale. Certo, un cortocircuito totale, ero molto emozionato, sarò molto emozionato mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, ovunque, sarò sempre molto emozionato. Ti mancava un po' la spinta, diciamo, di adrenalina del rock sul palco? Moltissimo. Che deve essere molto diversa da quella del teatro. Assolutamente, anche a livello tecnico, ma questo è un altro discorso. Dico semplicemente che oggi ho semplicemente bisogno, come in ogni altra cosa, quando ho fatto Formidabili quegli anni, era il 2008, avevo bisogno di dire 40 anni dopo c'è bisogno di un nuovo 68, qualsiasi cosa voglia dire, non per l'ideologia, ma l'idea di un cambiamento. Questo stavo dicendo. Una svolta. Oggi ho bisogno di dire che io sono dalla parte del torto e mi piacerebbe essere in molti dalla parte del torto. È ovvio, perché io vorrei essere tra tanti, vorrei essere amato da tutti e vorrei che tutti ci amassimo, tra l'altro, e non ci dividessimo ogni volta su ogni nostra idea, affermazione. No, ma io sono più a sinistra di te, io sono meglio, io sono più puro di te, e ci dividiamo su tutto. Ecco, io vorrei che invece una volta riuscissimo a trovare almeno 2 o 3 cose fondamentali su cui siamo d'accordo. Per esempio sul fatto che la stampa non ci dà spazio, sulla svendita di ogni valore, sulla mercificazione della nostra vita, dei nostri talenti, sul fatto che per fare carriera in Italia sei costretto, pare, senza che ci sia una regola scritta ovviamente, a prostituirti. Allora, su queste cose mi sembra che più o meno tutti le sentiamo, le avvertiamo nell'aria, no? Allora possiamo fare una scena comune su questo? Io sono a disposizione. Io sono a disposizione, mi prendo tutte le botte, io tanto comunque ne ho già prese tante, non c'è problema, sono ancora qui. Questo sto dicendo, non ho mai accettato. Io ho fatto una canzone che si chiama La mia realtà, che era nei titoli di coda di un film campione di incassi fino al giorno in cui non è arrivato un certo Checco Zalone, mi sembra, che ha spazzato via quel campione, è diventato... Bene, se ne è accorto qualcuno? Tantissimi. No, attenzione, è dialettica la cosa. Io ho ricevuto decine, non esagero perché so quello che dico, decine, non centinaia, non migliaia, non centinaia di migliaia, sono andati milioni di persone a vedere quel film di Aldo Giovanni Giacomo, come si chiama, La banda di Babbo Natale. Ho ricevuto decine di lettere indirizzate direttamente alla casa di produzione di quel film, che parlavano di commozione, parlavano di emozione così profonda, quasi incontenibile, rispetto a una canzone che concludeva un film. Ok, se ne è accorto qualcuno? Il mercato dice nessuno. La canzone La mia realtà di Giulio Casale non ha avuto nessun passaggio radiofonico, nessun passaggio televisivo, nessun videoclip, nessun titolo di giornale. Ma io ho ricevuto decine e decine di email e di lettere che mi dicevano: io non ho mai sentito una canzone così emozionante. Per me quello è il successo. Quella cosa lì è successo qualcosa. Le persone che hanno sentito una volta, perché non è che l'hanno sentita 100 volte alle radio, l'hanno rivista a MTV, l'hanno risentita nei piano bar o nei sushi bar, che è peggio, no? E poi hanno detto, sì, è vero, è una canzone che è carina. No, hanno sentito una volta andando a comprare un biglietto di un film, non certo per me, ovviamente, non sono così stupido. Hanno guardato un film di Aldo, Giovanni e Giacomo, alla fine sono partiti i titoli di coda e sono tornati a casa, hanno cercato l'autore, il nome, il cognome, la casa di produzione del film e hanno scritto una lettera dicendo: io non ho mai sentito una canzone così bella, per me questo è successo. Beh, sono... ti capisco perfettamente. E tra l'altro, ma qui andiamo molto oltre, non abbiamo più tempo, significa per me una cosa molto più profonda che a te, che sei una persona che mi conosce da molti anni, voglio dire, ma a te, come se fossero microfoni spenti in questo momento, significa per me che forse è tutto vero quello che stiamo dicendo questa sera, e cioè non abbiamo noi degli anni 90 mai giocato ad armi pari. Io mi sono sentito dire 100.000 volte dai miei direttori con marketing della Warner Bros. Italia, quando lavoravo con loro, ma persino della Mescal, chi se ne frega, che non sono abbastanza popolare, cioè non ho un linguaggio, non adotto un linguaggio abbastanza popolare. Allora dico, di cosa stiamo parlando? La prima volta che io ho potuto parlare a milioni di persone, quello che mi è arrivato addosso è la commozione. Allora vuol dire forse che è un problema di opportunità, cioè ho mai avuto la chance di parlare al grande pubblico? No. Vediamo, dico, se una volta capiterà, vedremo l'effetto che fa. Chiaro. Di certo non sono disposto ad accettare la regola che di solito presiede alla visibilità, perché significa rinunciare alle tue stesse ragioni artistiche. L'ho fatta lunga, adesso finiamo. Io volevo sono mettere... molto felice di essere stato qui. Domani devo fare altre 10 interviste, devo andare a avere una buona notte a tutti. Avete ascoltato Radio Blu. Veneto, Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. No, scusate. Noi chiudiamo sempre con un pezzo dal vivo, però prima volevo anche far ascoltare almeno un'altra canzone del disco. E quindi insomma, facciamo il disco che è un po' no, più interessante. Tutte e due, questo chiudiamo... è un disco elettrificato, ci, non ci è un disco acustico. Ci dicono che possiamo sforare un po'. Sforiamo, andiamo allora... al 6 di marzo, guarda che poi non tornano più i conti. Manca poco. Dalla parte del torto, il titolo dell'album, il te brano che ci ascoltiamo... L'hai imparato, hai visto? Sì, dagli e dagli. Il brano che ci ascoltiamo è La Mistificazione. Oh, e... questo è il punto. E poi ci canti qualcosa per augurarci la buonanotte, va bene Giulio? Lala siamo bye, d'accordo? Lullaby. Perfetto, andiamo col brano dal disco. Mi sono seduto dalla parte del torto, perché ogni altro posto era occupato. Guardavo chi spreme la vita, ridere forte di ogni mia ferita, mentre ascoltavo gli argomenti peggiori, difesi sempre dai migliori avvocati. Pensavo senza darmi consolazione che non si è mai del tutto spacciati, però si vuole la grande mistificazione. Se l'unica idea che rimane è esercitare potere, l'inferno è questo e questo qui, è la grande finzione. La mistificazione non è mica il demonio che vince, ma il trionfo dell'io, la menzogna dell'io, senza più le persone. Mi sono preso tre soddisfazioni, non cedendo a lusinghe, tipo grandi occasioni, e ho dato fuoco ad ogni mia abitazione, senza nemmeno usare un falso nome, e nell'amore ho visto forme d'infinito, ma come resa e mai come conquista. Può darsi pure che io abbia fatto del bene, ma distrattamente, quasi come una svista, però si vuole la grande vita. creazione. Sei l'unica idea che rimane, esercitare potere. L'inferno è questo e questo qui è la grande illusione, la mistificazione. Non è mica il demonio che vince, ma il trionfo dell'io, la vergogna dell'io, senza più le persone. Sono seduto dalla parte del torto, perché ogni altro posto era occupato. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Allora, questa era la mistificazione. Come avete potuto sentire, a Giulio potremmo dare un'oretta alla settimana. No, so. Cioè, è che un'ora d'aria. So che è un secolo di tempo libero per sì, cui potresti sì. venire qui da noi. No, allora, va bene, questo disco lo potrete ascoltare in rotazione sulle nostre salutiamo, canali. Salutiamo un po' di sì, persone. Qui c'è un elenco, alcune delle persone che ci hanno contattato su Facebook stanno ascoltando, non so se citarli tutti perché non vorrei fare anche delle, beh, Salvo Ruolo che è un ottimo musicista fra l'altro, non so se lo conosci, saluti, il nostro amico Massimo Danieli, un altro cantautore, Elisa Orlandotti che è una giornalista della rivista Jam, che credo di aver incontrato recentemente, sì. Federico Bernini, Luciano che è un fan di Guido Toffoletti, dice. Io per Guido Toffoletti ho fatto una specie di requiem una sera, una serata organizzata da Joe Alaimo in cui eravamo in tanti, mi ricordo Le Orme, Aldo Tagliapietra, Massimo Priviero, ecco, ho un ricordo, come dire, ex post di grande commozione rispetto a Guido Toffoletti, che ho avuto la fortuna di frequentare ma molto poco, per cui ecco, non posso dire di averlo conosciuto così Silvia profondamente. Silvia Casale Cataneo è tua parente? Direi proprio di sì, perché ha due cognomi che mi riguardano, quindi direi che si trattasi di della mia amata sorella. Ah, bene. Gabriella Giudile, Elena Mattioso. Devo dire che questa è la forza della rete, nostro amico, però attenzione, Zanella, è sì. la forza della rete questa. Io non vorrei fare appunto delle... No, no, infatti ci sono molti altri nomi, li salutiamo tutti, perché davvero... Anche perché penso che tutti loro, più che sentire il loro nome in radio, sarebbero felici di sentire te ma che ci canti l'ultima canzone. Ma io non sono così convinto di questa io cosa. Io invece te lo dico con una certa... tranquillità, ah, ecco. vogliono tutti ascoltarti cantare per chiudere questo bellissimo appuntamento. Naturalmente tu sai che le nostre porte sono sempre aperte per te, quando fra 7 anni farai un altro disco. Infatti sì, non prima, mi raccomando. C'ho altre cose da fare prima, perché non sai che... E la telenovela tedesca, la non può vivere senza di te. I libri e poi appunto, non so, l'opinionista, il tronista, insomma c'ho un po' di appuntamenti inderogabili, tutti gli ismi del resto ci hanno sempre fatto ridere più che altro. Che canzone ci canti? La canzone più rilassante del disco si chiama Un'ossessione. Bene, allora scusa prima che cominci, buonanotte a tutti da Stefano Dainese. C'è un jingle? No, ok, possiamo andare. Da tutto lo staff di Blu Radio Veneto. Lo sponsor non ha sponsorizzato questa trasmissione, come è evidente. I nostri sponsor sono i nostri ascoltatori. Grazie a chi ha ascoltato davvero. E grazie a Giulio Casale per essere stato con noi. Ecco un'altra notte per desiderare, pesce vino bianco per cominciare, usando dei rimedi per non invecchiare, trovare lavoro, ma non per me. più per loro. Provare repulsione per i numeri pari, cercare di seguire più telegiornali, portare i tuoi bambini allo zoo safari e cambiare lavoro, ma non per me, più per loro. E a queste cose pensarci sempre, non parlarne mai, e non parlarne mai. Al tuo dolore che picchia dentro, non pensarci mai. La gioia che ti sfiora solo verso sera, sperando di tornare presto a forma intera. Arredare la casa con atmosfera e cambiare opinione, rivalutare la religione. Poco a poco cedere anche agli inganni, sapendo di mentire già da anni e anni, e calcolare il prezzo tra vantaggi e danni. E la tua soluzione è santificare la prostituzione. A queste cose pensarci sempre, non parlarne mai, e non parlarne mai. Al tuo dolore continuo e sordo, farci caso mai. Sento crescere un'ossessione, sento crescere un'ossessione, sento crescere un'ossessione. È lento quel deserto che si allunga verso me. Verso me. E a queste cose pensarci sempre, non parlarne mai, e non parlarne mai. Al tuo dolore continuo e sordo, farci caso mai. Sento crescere un'espressione, sento crescere un'espressione, sento crescere un'ossessione, sento crescere un'espressione. Sono seduto dalla parte del torto perché ogni altro posto era occupato. Grazie a tutti, eh? Buonanotte, buone notti a venire.